questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Just a perfect day. Campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Quattro volte siamo di fronte alla storia della Formula 1. Che scena, si inchina davanti alla sua macchina, l'ha messa lì e questo è Sebastian Vettel. Ci ha regalato uno show. Grazie. Done it, style. Fantastic, you're a four-time world champion. Brilliant, brilliant drive. You join the greats. Well done. Yes! Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Simone Marchigno, l'ha visto Strootman. Strootman zona tiro. Bradley, Bradley, Bradley! Passa con Michael Bradley, cala il sipario, vince la Roma anche ad Udine, supera la prova del 9, l'Udinese non perdeva in casa da più di un anno. Guarda, noi stiamo pensando una partita alla volta e siamo venuti qua oggi per fare una buona partita, cercando i tre punti, ci abbiamo messo tutto e alla fine secondo me tre punti meritati. Questa è una squadra con grande voglia, grande determinazione, ovviamente l'anno scorso non è andato come volevamo, adesso sta andando un po' meglio, ma come detto siamo concentrati, vogliamo continuare così. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Quest'oggi ha fatto cantare come un tenore il quattro cilindri della sua Yamaha, tutti in piedi sul muretto a celebrare questa straordinaria vittoria su una ruota sola. Lorenzo c'è, tiene aperto tutto, sì, sì, sì, dice Lorenzo ai suoi, lo dice anche a Marquez che passa sul traguardo in seconda posizione davanti a Daniel Pedrosa. Oh, a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Parolo in porta! Parolo! Il 3-2 di Marco Parolo! Just a perfect day. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti, regia, ciao a tutti. Sempre convinto, più che mai, che lo sport sappia essere arte e poesia, allora oggi, fatale, ascoltare la musica della domenica e i versi di un grande poeta come Lou Reed. Ciao, Pardo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Assolutamente condivido in pieno, insomma. Un grande. Poi... Si rasenta la banalità, ma insomma veramente... poi te ne faccio sentire un'altra su altri temi. Ma come hai raccontato i due rigori ieri? Hai fatto la telecronaca di Napoli-Torino. Come hai raccontato quei due rigori? Ma il secondo ho detto che non c'era assolutamente, ho detto che non c'era il rosso. Devo dirti che sul primo siamo rimasti un po' ingannati, anzi faccio pegna, nel senso che poi allora rimango abbastanza convinto del fatto che quel rigore lì, soprattutto a velocità normale, è un rigore che si può dare e alla fine il contatto c'è, però è evidentissimo e man mano che si guardano i replay te ne accorgi, soprattutto con delle immagini che hanno pescato a un certo punto che è Mertens essenzialmente che fa di tutto per cadere, quindi è una simulazione travestita da rigore. Anche se poi, ripeto, soprattutto a velocità normale, Bellomo fa un intervento talmente sciocco, talmente illogico, andando con la gamba dritta, sì. Un intervento non da difensore, Quindi è normale, la normale conseguenza, no, può essere l'inganno. L'errore sul primo rigore ci può stare, sì. Può stare, ha tratto inganno me, ha tratto inganno molte persone, soprattutto in tempo reale. Sul secondo è una cosa che non ha senso, ma poi sul secondo il rigore viene dato su segnalazione dell'assistente col Torino che era già a metà campo dall'altra, sì, parte, quindi è stata, diciamo, una coproduzione. Sì, non sì, è stato sì, l'arbitro, di quello. Beh, d'altra parte è lunedì italiano, no? Siamo qui, abbiamo un miliardo di temi e ovviamente partiamo dai rigorini per il Napoli. Poi possiamo dire e diremo per la Roma corre il tassametro delle vittorie, ma voglio dire si alza anche quello della temperatura della pressione, sappiamo quanto da quelle parti sia rischioso, appunto il Napoli trova Higuaín ai rigorini, la Juventus ritrova la faccia migliore e qualcosa che le viene restituito anche qui sul fronte arbitrale, anche se qualcuno si arrabbierà, vabbè, tant'è, no? Di lamento si è perito con Real Madrid, di lamento genoano si è vissuto ieri, vabbè. Il Milan anche mi Milan, sembra Milan, sia l'argomento ieri del giorno, il Milan, esatto. Sì. Poi anche mi domando, il Milan può recriminare, questo va detto. Sì, il Milan può recriminare su quei disastri difensivi che combina. Secondo me ha ragione Nicchi nel dire, ma poi ne parliamo bene. Sicuro Galliani che dobbiamo chiedere scusa a qualcuno? O Galliani vorrebbe le scuse dei suoi difensori? Perché magari potrebbe anche essere così. Mi sembra abbastanza ridicolo così aprire un altro dossier, cosa che il Milan ha fatto, e siamo a quota 2. Dopo che hai una squadra che non funziona in quella maniera, insomma, mi sembra che oggi sia parecchio da discutere con gli ascoltatori. Pierluigi 800240024 numero verde. Poi parliamo del terzo gol del Parma, perché quella è proprio un'immagine, secondo me, emblematica. In radio non ci sono le immagini, ma insomma invito le avranno viste tutti, con due uomini in barriera, Birsa e Matri che si aprono, poi la punizione sarà anche stata 8 metri più vicina, però se quei due non si aprono difficile prendere il gol. Va bene, 800240024 strade, e poi di nuovo qui con Pierluigi Pardo e con un'altra canzone di Lou Reed che ci sta, visto che abbiamo cominciato a parlare di lato oscuro. Che da oggi in avanti, perché si vede che devo entrare a piedi uniti e iniziare a insultare qualcuno per dire, per favore, parlate di calcio. Tutti convocati. Miami, FLA. Devo dire che questa è la mia preferita. Mi sento molto Gigi Telesforo. Esatto. No, però, la mia preferita è stata Light of Love. Sì, però, sì. Però vabbè, se fai il bravo, poi ti faccio sentire anche quella. Però questa è la mia preferita in assoluto. Allora, la punizione del Parma è stata battuta, dimostra al Milan 8 metri più vicino alla porta rispetto a quella rossonera. Sì, però Nicky, posso dirti, ecco, questa cosa qui pure, sì. Verissimo tutto, assolutamente, sarà battuta molto più avanti e doveva essere battuta molto più indietro, però insomma una squadra che ha degli attributi lo impedisce, fisicamente la impedisce, certo, prendere, no? Sì, sicuramente, e infatti poi c'è questa diatriba per cui Galliani, Nicky dice strano che nessuno abbia protestato, Galliani dice ma come è curioso che Nicky inviti a protestare. Per riepilogare la vicenda, c'è questa storia qui della punizione, Galliani dice mi aspetto le scuse da qualcuno, da Valeri, Nicky che cosa risponde? Ma siete sicuri di aver capito bene? Non è che Galliani vuole le scuse dai suoi giocatori, casomai? No, a parte le battute, cioè io accetto, voglio dire, serenamente tutte quelle che possono essere critiche, serene o anche battute, perché spero che questa sia una battuta, perché noi le scuse non le dobbiamo a nessuno, nel senso che se dobbiamo mettere le cose a livello sportivo su questo livello, noi quante scuse dovremmo avere da tutti ogni domenica? Quante? Non so, dimmelo tu. Beh, però ci sono anche le domeniche in cui magari qualche scusa devono darla loro. Ieri sono andati malissimo, e insomma, mi sembra in maniera molto, molto forte, molto generalizzata, e onestamente penso al caso di Juve e Napoli, mi sembra, ma ovviamente non c'era controprova, che sia andato in una direzione delle squadre che erano più forti e che stavano comunque portando a casa la partita. Detto questo, hanno sbagliato tantissimo, sicuramente sia il Napoli che la Juve hanno avuto un percorso ulteriormente facilitato in quella che era una partita che sembrava alla loro portata. Per quanto riguarda il Milan, sì, vabbè, la battuta ci sta, perché appunto gli atteggiamenti della grande squadra sono diversi, c'è una ferocia diversa anche nel controllare questo tipo di situazioni, anche nell'impedire che la punizione venga battuta 8 metri più avanti, ecco, quindi tutta una serie di elementi che secondo me vanno tenuti in grande considerazione. Detto questo, poi ci sono i rigori, insomma, il Milan ieri è stato oggettivamente danneggiato a parte. Quali rigori? Beh, ci sono state due situazioni. Non dirmi la simulazione di Balotelli, però. No, la simulazione di Balotelli è stata applicata nel migliore. Ah, ho capito, pensavo. No. Immaginavo che volessi parlare di questo. Come l'hai trovato senza cresta? Chi, il numero 45? Sì. Ne parliamo tra un po'. Va bene. Sempre sul lato oscuro c'è Conte che vince, ritrova a tratti la sua Juventus, che nulla ha rubato sul piano del gioco, del risultato, naturalmente. Rubato non è una parola che non voglio dire. Nulla ha... non mi viene un altro termine. Aiutami. Nulla ha demeritato. Vai, una cosa che miseria, che è arrampicata sugli specchi. Comunque, poi Conte trova il modo per un atto di accusa, non, secondo me, non richiesto. Purtroppo io sono una persona talmente limpida e pulita che le cose le dico così come le dico in televisione, le conoscono benissimo in società, quindi non è che io sono uno che viene e fa una faccia davanti e dietro pensa diversamente. E leggere che io abbia litigato con Marotta e comunque si fa ricorti con la società, una presunta rottura... Io parto dal presupposto che se c'è da dire qualcosa da un punto di vista tecnico-tattico sul gioco, benissimo, però quando si parla di notizie infondate, perché sono messe in giro queste notizie? Io vi faccio questa domanda, per quale motivo sono messe in giro? Se non per destabilizzare l'ambiente, per dire che Conte ha rotto con la società, con Marotta. Giustamente scrive Maurizio Crosetti, destabilizzano le sconfitte, non le voci, che magari un fondo di verità ce l'hanno anche. A parte il fatto che è stato lui a sollevare certe critiche, non la stampa, l'impressione è sempre, e ce la teniamo, che qualcosa si sia incrinato tra lui e la società, e i giocatori fiutano anche quest'aria, e dunque è facile che qualcosa si sfilacci. No, ma probabilmente ha ragione Conte, nel senso che non credo che ci sia stata la rottura, no? Su quello, no, rottura è tanto. Riuscire a dimostrare che sia avvenuto veramente lo scontro è molto complicato. Che ci siano però delle, diciamo, diversità di vedute dal punto di vista della gestione tecnica della squadra, questo Conte l'ha in qualche modo fatto pensare, lasciato supporre con i suoi atteggiamenti e con le sue critiche. Insomma, la conferenza stampa nella quale comunque si è presa con la società per la cessione di Matri, una conferenza stampa molto forte, poi lui ti potrà rispondere. L'ha fatta lui, sicuramente lui ti dice: io non ho avallato la cessione dal suo punto di vista, però se un allenatore non avalla una cessione, questa cessione viene fatta, qualcosa non va. Quindi, insomma, non sono d'accordo con te. Insomma, mi sembra che lo sfogo di ieri sia uno sfogo un po' forzato. Poi, probabilmente, parlare di rottura è sbagliato, perché ad esempio io non metterei la mano sul fuoco sul fatto che Conte a fine stagione lascerà la Juve. Secondo me ci sono ancora delle possibilità che rimangano. Io lo sospetto, ma poi siamo a fine ottobre. Ci sono degli indizi. Sembra un idillio completamente risolto al 100%. A proposito di spaccature, io anche qui non ho nessuna conferma, ma la sensazione che tra Allegri e Balotelli qualcosa sia successo c'è, anche perché ogni motivo mi pare buono per punzecchiare. Enrico Curro, aspetta, sì. Salutiamo Enrico Curro, inviato di Repubblica. Ciao. Volevi dire, Pierluigi? No, volevo dire che se vuoi essere ancora più malizioso, la reazione del Milan di ieri è arrivata subito dopo la sostituzione di Balotelli. Ora non credo che si possa dire che la squadra ha votato la sfiducia a Balotelli, mi sembra veramente troppo, però è una combinazione che secondo me, insomma, deve... io ci ho pensato sinceramente, poi non ci credo, però insomma Enrico, che ha fatto i pezzi e che era lì presente, non so se ha avuto la stessa sensazione di una squadra che improvvisamente, quando tutto sembrava perduto, quando era a spalle al muro e quando Balotelli era uscito, si è messa improvvisamente a correre e a lottare. Sì, sì, la sensazione è quella che in realtà nessuna squadra in nessun momento si possa permettere di giocare con un uomo in meno. E Balotelli nel primo tempo è stato un uomo in meno per il Milan. Non so se questa sia stata una giornata storta o qualcos'altro, però il dato di fatto è quello. Poi sulla rottura tra Allegri e Balotelli non sono tanto d'accordo. Penso più che altro che Allegri stia cercando, confortato dal fatto che finalmente il Milan ha un giocatore al quale si può aggrappare davvero, che è Kakà, stia cercando di dire a Balotelli, di trasmettere a Balotelli il messaggio: tu sei uno come gli altri, essendo tu uno come gli altri io ti posso sostituire quando ritengo che sia il caso, e soprattutto non ti sentire troppe responsabilità, cioè non hai il Milan sulle spalle, perché non sei ancora il campione che ha dimostrato di potersi mettere una squadra sulle spalle. Sì, ma Enrico, però gliel'avevano un po' messo il Milan sulle spalle, Infatti la situazione è molto cambiata, non è che fosse tutta colpa di Balotelli, però il dato di fatto attuale è questo, cioè che Balotelli non è più né al Milan né in nazionale il centro di gravità della squadra, sta cambiando molto tutto intorno a lui e forse non è così abituato a una situazione come questa in cui non è più la prima donna. Ma un giocatore così, Pierluigi, lo punisci? Perché è chiaramente punitivo una sostituzione di quel tipo, ma giustificata, per carità, perché ha fatto schifo ieri. Ma lo punisci o cerchi di recuperarlo lasciandolo in campo? Ma no, fai quello che in quel momento ti sembra più importante, più utile per la squadra, e mi sembra che Allegri la sostituzione l'abbia azzeccata, perché sicuramente il Milan da quel momento ha giocato meglio. Io penso che se vogliamo aderire all'appello di Balotelli, che è quello di normalizzare il rapporto mediatico con lui, quindi di parlarne quando non è strettamente necessario, dobbiamo in qualche modo anche se lo normalizziamo dobbiamo anche accettare l'ipotesi che possa essere sostituito. Insomma, è chiaro che la vita da fuori classe, la vita da numero uno, ti dà dei vantaggi enormi dal punto di vista economico, dal punto di vista delle attenzioni mediatiche, ti dà degli svantaggi, perché ogni giorno devi dimostrare di essere il numero uno. In questo momento questo tipo di patente Balotelli fa fatica a tenerla per vari motivi, e quindi ci stanno anche le sostituzioni. Non credo veramente che ci sia niente di clamoroso. Sicuramente Allegri in quel momento ha pensato alla partita e la sostituzione dal suo punto di vista l'aveva pure azzeccata. Sì, Enrico, Galliani-Nicchi, secondo te ritieni sia più opportuna la richiesta di scuse di Galliani fatta agli arbitri dopo la partita di ieri, o sia più opportuna la battuta di Nicchi che dice: ma non è che per caso sarebbe meglio una richiesta di scuse a qualche tuo giocatore, non so, Constant, che è stato massacrato da Biaviani, non da Cristiano Ronaldo, Birse Matri che si aprono in barriera, un sacco di errori che giustificano questo 3-2, legittimano questo 3-2. La risposta l'hai già data tu su quale sia delle due battute quella da prendere sul serio e quale invece no. Io direi che comunque Galliani, che è sicuramente un dirigente come minimo scafato, se ha fatto quello che ha fatto, cioè se sta cercando di spostare l'attenzione su una cosa che tutta questa attenzione, diciamo la verità, non la merita, evidentemente perché appunto vuole che non si parli troppo della questione Allegri e della questione Balotelli, che sono due questioni entrambe abbastanza scabrose. Chi ha visto la partita credo che non possa non soffermarsi sul fatto che anche il Parma ha qualche motivo per lamentarsi dell'arbitraggio, sì, perché certo, comunque Cassano è stato travolto in una maniera un po' sospetta da Gabriel in area di rigore, e perché De Jong, non dico che dovesse essere espulso, ma poteva essere espulso, perché il metro di giudizio su azioni analoghe a quella che è costata l'ammonizione a De Jong molto spesso, molto più spesso, vengono punite col cartellino rosso. Eppure non mi sembra che quando il Milan fa questi conteggi dei torti, poi è successo spesso anche l'anno scorso nelle ultime famose 7 giornate, il Milan ha spesso fatto legittimamente appunto il conto degli errori arbitrali ai suoi danni, però si è un po' dimenticato di calcolare anche i favori che ha ricevuto, che sono fisiologici. Beh, ma certo, perché... ma è sempre così, eh. Quando mai hai visto uno che presenta un conto, no, che fa, chiaro, due colonne? Che in questo momento ci sono due piani da parte di Galliani, c'è un piano pubblico e un piano privato. Il piano pubblico è quello di dire che il Milan è stato svantaggiato e magari anche di pensarlo, e va bene. E poi c'è un piano privato, c'è un piano interno di comunicazione interna che riguarda Allegri, che riguarda Balotelli, che riguarda, secondo me, il sano, giusto, costruttivo processo che qualsiasi squadra al mondo, tanto più una squadra, una società importante come il Milan, deve fare in questa situazione, perché insomma poi magari deve fare un processo, sì, anche a se stessa e alla campagna acquisti che ha fatto. Sì, questo sì, considerati i denari che ci sono in borsa, è chiaro che se dimezzi gli esborsi non puoi che fatalmente dimezzare anche il valore di una squadra, perché questo è. Enrico Curò, ti ringrazio. Grazie a voi, ciao. Ciao Enrico. Pierluigi, ciao. Pardo, tu stai lì, adesso abbiamo la borsa e poi vorrei chiedere a un ascoltatore che mi domanda, prima di parlare pensaci mille volte, pensa al tuo amico evasore, a parte che parlare è mio mestiere quindi non posso stare zitto, mi spiace per lei che può sempre cambiare canale, però vorrei sapere qual è il mio amico evasore, se Valentino Rossi o Maradona, perché sono miei amici tutti e due, a dopo. Ha portato, perché Mario Balotelli è un giocatore come gli altri e può capitare che una giornata la giochi male e possa essere sostituito, tra l'altro era anche ammonito e quindi si correva il rischio magari che fosse che venisse anche buttato fuori con un'altra ammonizione. È entrato Matri, è entrato Kakà, la squadra ha fatto bene, credo che non ci sia nessun caso Balotelli. Tutti convocati. Tutti convocati. Alrida Beethoven. Altro genio della musica. Altro immenso artista, per la Roma naturalmente, ma la Roma fa 9 vittorie di file, tutti convocati, parla di Milan, Balotelli, ma per favore, no, parliamo di ciò di cui c'è notizia della Roma, che cosa si può dire se non tanti barbosissimi, ma guarda, bravi, questo è un tema, tante volte mi capita, non ho dei commenti, ma sì, ma giusto, oggi... giusto che ci siano, ma la Roma è da guardare, no, però aspetta, questa cosa secondo me va detta con un filo più di chiarezza, nel senso che appunto poi sembra che uno ce l'ha con una squadra piuttosto che con un'altra, in realtà è chiaro che quello che fa notizia è quello che è inatteso, che è inaspettato e che in qualche modo accende anche le polemiche, quindi oggi è ovvio che di questa giornata di campionato la Roma va celebrata, infatti la celebriamo adesso, verrà già inserita in scaletta, stasera a Tiki-Taka ci sarà De Santis, chi è stasera, di cosa parli? Parliamo di Roma con De Santis, parliamo di Milan perché chiaramente insomma vogliamo capire se Allegri è saldo, vogliamo capire che succede a Balotelli, c'è Max Pezzali in studio, abbiamo un po' di esclusive stasera perché abbiamo fatto era qualche settimana che parlavamo poco di Inter per una serie di motivi, non perché anche qui, non perché ce l'avessimo con l'Inter, ci mancherebbe altro, ma perché magari dava un po' meno notizie, no? Invece questa settimana abbiamo il reportage di Anna Capella dall'Indonesia con il suo incontro con Tohir, un'intervista lunga, esclusiva a Ronaldo che parla a 360 gradi, chiaramente la vivremo con i contrappesi perché Ronaldo parla anche di Calciopoli e c'è già Mughini scatenato e sarà divertente, insomma, non parla di poker invece, esatto, non parla di poker, mescolare opinioni diverse e poi tutti questi temi, poi ovviamente anche i disastri arbitrali con Graziano Cesari, Juve-Napoli, cercheremo di capire chi è l'anti-Roma, no? Famosa frase che uno si porta dietro, quindi insomma, poi alla fine, Pierluigi, le notizie, come scrive Mario Sconcerti, sembra un maestro, le notizie di questa domenica sono essenzialmente due. La prima è l'eccezionalità della Roma, cui quasi non si riesce a tirare in porta. Ieri ha avuto un po' di fortuna sul palo di Muriel, ma il modo in cui ha chiuso la partita è stato a grande squadra. E mi sembra che sia così, insomma. La seconda notizia deriva dal Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le due grandi notizie del calcio domenicale. Sono d'accordissimo, con la differenza che ovviamente la Roma va celebrata, infatti noi avremo una serie di di pezzi celebrativi, e con De Santis capiremo insomma che cosa sta succedendo, e avremo dei pareri di tifosi, VIP, gente comune, Vox Populi per celebrare la grandezza di questa squadra. Beh, le celebrazioni Milan, annoiano. Sul Milan chiaramente c'è più ciccia, ma non è. Sì, questo non vuol dire che il Milan sia più importante della Roma, che in questo momento chiaramente chi fa notizia, chi fa discutere. Però vedi, questo discorso qui, sai, non è, insomma, non è tanto scontato, quindi magari uno può pensare, cioè in questo momento didattico secondo me non può essere utile. Ma dai, possiamo dire, Pierluigi, alla fine c'è Antonio dalla provincia di Venezia, Francesco d'Avellino, mi muove dalla voglia di parlare con gli ascoltatori, 800240024, però la misura esatta della Roma ce l'avremo nel momento in cui finirà la magia, in cui arriveranno le prime difficoltà. Allora, ma prima non parlavate della Roma che vinceva, adesso ne parlate perché ma certo, perché la misura della Roma l'avremo quando ci saranno le prime montagne da scalare, che arriveranno. Però insomma è chiaro che deve essere celebrata, ma insomma, sì. squadra pazzesca che sta facendo delle cose incredibili, ha fatto 23 gol e ne ha preso uno, qui siamo oltre qualsiasi record, oltre qualsiasi nettamente la miglior squadra italiana in questo momento. E la cosa più divertente, non c'è molto da, la cosa più divertente da aggiungere, è lo spirito con il quale i romanisti in maniera un po' incosciente stanno vivendo questa cosa qui, perché Roma soprattutto fanno bene, ma fanno bene. Vive di iperbole, no? Di esagerazione. Ieri sera per esempio c'era questo hashtag, per chi ama Twitter, Garcia può, nel quale praticamente veniva attribuito a Garcia, era chi la spara più grossa, qualsiasi potere taumaturgico, cioè possibilità di curare il cancro, di convincere uomini politici famosi che sono in ballo da tanti anni a ritirarsi a vita privata, a trasformare gente che insomma ha fatto una vita di un certo tipo in monache di clausura. Quindi era una gara a chi la sparava più grossa, insomma. Da questo punto di vista la città offre veramente uno spettacolo bellissimo. Antonio, buongiorno. Dica. Tutta la stima e la simpatia che le voglio a lei, al simpaticissimo Pardo, io sono tifosissimo della Roma e da 2 settimane che vi scrivo e vi dico, dovremmo aspettare 38 vittorie consecutive, stabilire il record dei record per dare attenzione a questa squadra che è da fantacalcio. Allora, mi dica lei che cosa vorrebbe per esaudire la sua richiesta, cosa vuol dire prestare attenzione, cosa dai, possiamo fare? Dai. No, allora, Antonio, mi metta un audio del mitico Carlo Zampa, che ieri ero in tribuna centrale allo Stadio Friuli, quando ha segnato Bradley, ho aperto uno striscione da 1,80 m con scritto Carlo Zampa numero 1 in nazionale. Spero che qualcuno l'abbia ripreso, perché avevo tutta la platea dei tifosi dell'Udine che si stavano quasi scagliando contro di me. A me interessa invece la vita dai migranti, perché la Roma è una squadra fortemente connotata con la città, e quindi sentire i tifosi della Roma non propriamente romani fa sempre un certo effetto. Quindi volevo capire se c'era un'origine, dove vive, che fa, se è dura, se è difficile, insomma. Quanti siete lì a tifare Roma? Ma pochissimi, faccio conto che io vivo in un paese di circa 20.000 persone, saremmo in 2, ma facciamo per tanti, insomma, ecco. Roma nel cuore, comunque vinciamo lo scudetto. Allora, Antonio, se questo può bastare, Zampa non l'abbiamo ancora pescato, l'ho sentito prima, mi ha fatto impazzire come al solito, però le faccio sentire un'altra cosa, questa. Questa è la reazione della curva della Roma a Udine ieri, di Original One, non è una cosa pescata a caso. Numeri uno. Poi c'è chi mi scrive, la Roma ieri meritava 2 pallini e andare a casa. La Roma ieri non meritava di vincere. Sì, ma questa non è una... Questa è un'aggravante della forza della Roma, non è una scusa. È una, bravissimo, cioè, è un'aggravante della forza della Roma. D'accordo, è una sottolineatura della forza della Roma, certo. Le grandi squadre hanno proprio questo, e la Roma dall'inizio della stagione, anche quando ovviamente viaggiava con dei fari assolutamente spenti, ha vinto tante partite con una gestione molto saggia della gara, dei 90 minuti, dall'esordio contro il Livorno ci fu un primo tempo non brillante, contro il Verona c'è stato un primo tempo non brillante, col Parma andato sotto, con la Samp ha aspettato, cioè è una squadra che mi sembra che trovi sempre la strada per colpire, è una, strada di un, è una squadra di un'intelligenza incredibile fino a questo momento. Quindi è vero quello che dice l'ascoltatore, che la Roma ieri non meritava di vincere per le occasioni, però ripeto, secondo me questo è un'ulteriore sottolineatura della sua forza. Però il calcio, che è gioco figlio delle stelle, ha bisogno anche di questi colpi di bravura o di fortuna, che poi è molto difficile distinguere una cosa dall'altra, perché sofferenza, un palo in 10 e poi il gol di Bradley, che fino adesso non aveva messo piede in campo. C'è dentro tutto il calcio in questa partita, in questo momento della Roma. Francesco Avellino. Salve, buongiorno. Buon pomeriggio. Buongiorno. Niente, io volevo ricordare a Raio riguardo alla sua polemica per quanto riguarda di portare pallone fuori dall'Italia, che poi l'Italia c'è già stato fuori dall'Italia e non mi sembra che sia andata molto meglio di quanto sia andata qua. Ritengo fortemente che il problema numero uno di Palazzo sia proprio Raiola. Nel momento in cui spaccerà la sua procura diventerà un calciatore e finirà di essere un personaggio. Lo so che vado in controtendenza con quello che lei afferma di Raiola, ma per me questi restano criminali per il pallone, questi che cercano di lucrare sui calciatori stabilendo se devono fare pipì all'impiego dai seduti. Vedremo il calciatore quando finiranno questi personaggi che non mi dicono niente per quando il pallone. Quindi direi tendenzialmente mai. Però. Aspetta, Pierluigi, dicevi qualcosa? Ma no, io penso che è chiaro, Raiola è un procuratore aggressivo, è un procuratore che ama i trasferimenti, è un procuratore che ama le dichiarazioni shock, è un procuratore che fa vivere spesso le società sul filo del rasoio, e quindi sicuramente da questo punto di vista può non essere considerato l'ideale per uno che già di suo insomma non ha la condotta più tranquilla del mondo. È stato il procuratore di Nedved, che è un tipo completamente diverso, Raiola, no? È il procuratore di Ibrahimovic, che invece è un altro che ha i mal di pancia. Sì. Non lo so se o forse può essere vero che ci vuole un procuratore. Il pallone mi sembra onestamente un'esagerazione, un'esagerazione. Probabilmente che nella vita di Balotelli degli elementi di stabilità, di tranquillità, di analisi, di introspezione, però poi qui ricadiamo una psicanalisi, io non la voglio fare. No, ma nemmeno io sono stufo perché di questa storia, le creste, gli orecchini, vende la Ferrari, cambia casa, ma chi se ne frega? Ma poi chi se ne importa di questo contesto che cambia? Quello che vedo adesso è un giocatore in difficoltà in campo e io quello valuto, poi il resto sinceramente è buono per altri rotocalchi. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Guarda cosa ti faccio sentire, anzi senti, ascolta. Così ti carichi per Tiki Taka, eh? Che spettacolo. Vabbè, basta, sennò canto e la rovino. Ciao Pier. Ciao belli. A domani. Nel prima partita abbiamo sentito Mino Raiola che ha lanciato un allarme, c'è troppa pressione intorno a Balotelli, la pensa anche lei così? La penso così sicuramente, ma Mino Raiola è un furbacchione. Tutti convocati. E io continuo a convocarvi, 800 24 00 24. Premesso che io preferisco lo champagne al Barbera, questo magari sarò poco popolare, se li mescola Giorgio Terruzzi come il lunedì sul Corriere della Sera, me li bevo entrambi. Ciao Giorgio. Buongiorno. Preferisci Barbera o lo champagne? Barbera, va bene, sì. Perfetto, una bottiglia per me, una ma per te. Ma perché bevo solo rosso io praticamente. Io preferisco, a me le bollicine piacciono, so che dire, sono... No vabbè, ognuno ha il suo. Ma sicuro, ognuno ha il suo e Vettel per tutti. Oggi tratteggi in Barbiere Champagne il perfetto ritratto dell'antipersonaggio, cioè dall'altra parte della luna rispetto, come avrebbe detto Lou Reed, che abbiamo oggi tante volte ricordato, rispetto al numero 45 del Milan. Sì, perché questo qui è un ragazzo che ha una sua dimensione di ombra dentro la quale si ritrova, si ricarica, insomma. Non è uno che ti fa fare dei grandi pezzi, dei grandi titoli, è uno che sta sul suo, però ha una normalità che in qualche modo lo rassicura e rassicura un po', insomma, no? Mm. Sì, maestro, è già leggenda più del necessario? Beh, è più del necessario, uno che ti spara lì quattro mondiali in fila e va da sé che galoppi su un registro di storia del motore, dello sport fuori quota. Poi lui secondo me non è leggenda, non è uno al quale non è uno da poster in cameretta, cioè non ce l'ha nessuno secondo me il poster di Vettel. Vero, non no. È una gran cosa per uno che è già leggenda. Mi sembra un difetto, mi sembra quasi un difetto, estremizzo. Sì, sì, però probabilmente a lui non gliene importa un fico. Cioè è un difetto per noi che abbiamo un rapporto più, come dire, colorato con questi qui, che fanno delle cose talmente lontane da noi, dalle nostre mani, dalle nostre gesti, per cui sembrano, come dire, degli eroi, poi con diverse gradazioni. Ma per lui di suo non si sente eroe, non fa l'eroe, non ha quella percezione di sé lì, ha una percezione di lavoro, di... Sono stato due settimane fa a vedere il mondiale di kart dei tredicenni, sì. Dei bambini, e questi qui che sono, cioè noi abbiamo tutti, non so, io ne ho avuti figli di quell'età lì, non vediamo amici, sono dei cazzoni, dei bambini che ridono, questi qui sono dei lavoratori dello sport con una dedizione, una serietà e una persino una cupezza, se vuoi, impressionante. Questo qui è venuto su così. La famiglia ha investito su di lui, c'era la sorella, a un certo punto hanno detto no, la sorella si ferma, devi andare avanti tu, come Stoner, uguale a Stoner. Sì, sì, sì. Quindi non è che ci hanno tanta... Una disciplina tennistica, mi viene da dire, come quelle ragazzine che poi magari diventano superstar ma che vengono tenute nel pollaio e lasciate a razzolare pochissimo. Forse questa è la strada anche della fame per diventare... super mega maxi extra campioni come Vettel, e già anche se non riesce appunto ad emozionare più di tanto fuori dalla pista, in pista sì, poi magari prende il phone e va a asciugare, visto le prove, no? va a raffreddare i freni della macchina, vabbè, il massimo del personaggio. Lui potrebbe fare un Sesto San Giovanni San Babile metropolitana e non lo caga nessuno. No, ma non sto scherzando, con la maglietta e i blue jeans. Secondo me non è che la gente lo assalta, capito? Sì, sì. Ecco. Invece, ieri mattina mi sono svegliato con il Gran Premio con te, no, che eri ospite a Fuori Giri su Italia 1. Quella corsa e quel duello mi affascina di più, quello tra i due spagnoliti. Lorenzo un mostro assoluto. Ora c'è il brivido alla fine dell'ultimo giro di pista, quello in cui non puoi sbagliare, e soprattutto su due ruote, se sbagli sei fottuto. Sì, in realtà Marquez può anche permettersi di trotterellare, perché deve arrivare quinto, e quinto deve frenare, secondo me, sì. In piena retta. Perché, però c'è una prima verifica, che è quella dell'ultimo giorno, no? Può anche essere... Marco sta cadendo di più del previsto, molto, in questi ultimi tempi, c'ha 20 anni, non dimentichiamolo, è uno però anche padrone, se no non arrivava fin qui con quello che ha fatto quest'anno al debutto, e quell'altro è un martello pneumatico, lui farà di tutto per metterlo in crisi, per provare a fargli fare una stupidaggine, Lorenzo. Poi nelle moto però c'è sempre questa possibilità di tirartela in testa che non va via mai, sai... L'errore sulla Formula 1 lo correggi, anche se sulla Formula 1 su quelle due ruote lì è molto più complesso. Sì, è molto più complesso, è molto più a rischio una domenica, è vero. E poi sono due facce di due modalità molto diverse di stare in pista. È vero che è più interessante, a parte che c'è, in Formula 1 non c'è più, non c'è stato da molto tempo, ma qui c'è un duello vero, ed c'è anche un passaggio di consegne, no? Perché Marquez sta, come dire, salta una generazione, che è la generazione di Lorenzo, no? Li prepensiona tutti vincendo, no? Giorgio, io vorrei salutarti con un'interpretazione autentica di un pensiero che è molto diffuso e che è questo. Lo scrive un ascoltatore da Valenza. Questo qui, Vettel, è diventato quello che è grazie a Chris Horner. Allora, risolvimi una volta per tutte con interpretazione autentica questo problema. È Vettel o è Horner? Quanto c'è del mito Vettel di questa macchina? No, allora Horner, mandar lì anche io e te. Cioè, se tu hai un pilota come Vettel e un progettista come Newey, poi gli dici dai, fate i bravi, andate avanti, questi qui fanno, vanno. Cioè, sì. Horner fuori dal discorso, Newey sì, però è sempre un problema nella Formula 1, questo sport qui, fare tagliare la torta, perché allora lui ha avuto la macchina vincente, penso che non sia il solo pilota capace di fare un filotto così con una macchina così, sì. Però la controprova non c'è, dico sì. Anche che la Red Bull con su uno medio non vinceva come ha vinto con Vettel, quindi secondo me uno può star lì tutta la vita a fare la percentuale, non certo, ne esce, cioè, certo. Non ne esce. Schumacher ha vinto 5 mondiali filati con una Ferrari che ha infilato una felicità tecnica che è durata un'epoca, sì. Questo ha fatto altrettanto, ha avuto fortuna, poi però cioè, non sbaglia neanche a, non so, a fare apposta una partenza, una stupidata, un fuori, non so, uno che poi in realtà quello che ha in mano lo fa brillare. Sì, è così. Grazie, grazie maestro. A voi. Grazie a Giorgio Buon Terruzzi. Raffaele, provincia di Napoli. Pronto, buongiorno. Buongiorno. La ringrazio di avermi convocato. Senta, volevo tutti convocati fino alle 15:20, ve lo ricordo, tutti i giorni, 800-24-0024, sì. Dica Raffaele. Senta, volevo sapere, io sono un tifoso della squadra che sta facendo cose, come si dice qui a Napoli, cose da pazzi. Volevo sapere, lei parlava prima delle prime difficoltà, secondo lei quali potrebbero essere le prime difficoltà per la Roma a livello, diciamo, tecnico, a livello può venire meno fisicamente? Sì. E il campionato italiano, se quest'anno è molto modesto dal punto di vista tecnico, se non trovo, poi questo è sempre un discorso che è abbastanza banale, cioè non credo che il campionato sia modesto dal punto di vista tecnico, è un campionato che a me diverte e quindi secondo me è valido, perché quando c'è incertezza, quando è così è bello, poi il resto tecnico non tecnico, livellato verso il basso, verso l'alto, sono discorsi che lascio volentieri ad altri. Il problema della Roma può essere un calo fisico che avverrà, può essere una sconfitta, può essere la reazione a quella sconfitta dopo tanta euforia. Vedremo. 800240024, dopo il GR siamo di nuovo qui. Tutti convocati. L'attacco di Strootman, si avvicina all'area di rigore. Strootman, provaci maledizione. Tocco per Bradley, tiro! E questo lo dovevamo al nostro ascoltatore da Venezia, di cui sopra 800240024. Cosa volete? Cosa posso fare per voi che volete una celebrazione della Roma? Ditemelo, perché a me sulle celebrazioni passa la poesia, la fantasia e anche un po' la libido. 800240024 invece, numero verde. Voglio salutare pubblicamente un mio grande amico che si chiama Leo Turrini e che tutti conoscete perché è amico anche vostro. C'è Fedri da Milano che vorrebbe risentire Leo Turrini su Raikkonen, questo lo facciamo un'altra volta live, però mi ha scritto un messaggio durante la pausa del GR che è questo: di che solo la Roma può battere Vettel e sei Adama. Grande Leo Turrini. Vi do invece tre notizie, tre agenzie. Una è questa: Francesco Totti migliora, si avvicina alla possibilità di rientro in campo dopo la sosta. Il capitano della Roma è stato sottoposto in mattinata a esami clinici, eccetera, eccetera, che hanno evidenziato un miglioramento della lesione miotendinea della coscia destra avvenuta nella gara contro il Napoli. Totti fa sapere alla società, proseguirà il protocollo fisioterapico e tra 7-10 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli. Morale: potrebbe rientrare dopo la sosta di campionato di metà novembre. Questa è una. L'altra è questa: Abete, arbitri, errori, ma logica scusa vale per tutti. Allora, ci sono stati degli errori, delle situazioni molto al limite, ma con onestà intellettuale, lo dobbiamo dire. Poi la logica del rispetto e delle scuse deve valere per tutti, dice il presidente della Federcalcio. Se ci deve essere una modalità di giustificarsi per delle valutazioni che poi non corrispondono a quello che emerge successivamente, questo deve valere a 360 gradi, insomma, tutti hanno diritto alle scuse se un arbitro sbaglia, oppure non ha diritto nessuno, che secondo me è la soluzione migliore. Sempre a proposito di arbitri, visto che sono così popolari, sono loro le vere superstar del calcio italiano, perché è così, se siete onesti lo dovrete ammettere, perché le vere superstar del calcio italiano sono gli arbitri. Ebbene, Calvarese arbitrerà Fiorentina-Napoli del turno infrasettimanale, Milan-Lazio sarà arbitrata da D'Amato di Barletta, per Roma-Chievo di giovedì c'è Peruzzo, mentre a dirigere Juventus-Catania sarà Marco Guida di Torre Annunziata. Vi piacciono? Avete qualcosa da dire? Guardate che io non so cosa rispondervi, se mi fate delle domande su questi, su Calvarese, D'Amato, Peruzzo, Guida e altri della compagnia fischiante di giro, io non so veramente cosa rispondervi. Marco, provincia di Ferrara. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno. Innanzitutto sono contento di parlare di questa trasmissione, perché è una trasmissione che secondo me ha dei punti saldi. Grande, quali? Soprattutto la cultura calcistica che è all'interno del programma, grazie a voi conduttori, insomma. Ma ci divertiamo. Veramente sì. I miei complimenti. Grazie. Al di là di quello, io volevo chiedere una cosa: ma è così difficile dire quello che secondo me è abbastanza obiettivo, cioè che la Roma in questo periodo ha una fortuna tremenda, le sta andando tutto bene, vedi discorsi diciamo così fatti arbitrari, ma lo sì, dico, non dico sì. Favori, dico accadimenti. Ma questo allora, è normale però Marco, è normale. È normalissimo. Voglio al dire, netto del... Marco scusami, posso dire... Prego. Togliamo tutti questi eventi favorevoli che se vuoi essere grande, vuoi vincere un campionato, ci devono essere. Togli questo, c'è una squadra oggi che gioca meglio della Roma? Ma secondo me sì. Quale? Però diciamo, al di là della mia fede, no, ma quale? Non sto dicendo la Juve di sempre, la Juve però che ho visto con il Genova, che ho visto con il Real in 10, sta praticando veramente un bel calcio. Io ieri ho visto anche la Roma, sinceramente l'ho vista anche in altre azioni, anche quando c'era Totti, anche quando c'era quel fenomeno che è un fenomeno di Gervinho, però voglio dire, questo calcio, io sento tanti che vogliono la celebrazione, aspettate un attimo, vincete qualcosa, no, e ma poi sì, andremo a celebrare. Ma oggi è giusto celebrarne il momento, è giusto celebrarne il momento, cioè non ce l'aspettavamo una Roma a questo livello, e io credo che anche, insomma, a un tifoso juventino possa far piacere avere, se è sportivo, possa far piacere avere un competitor di questo livello. Oggi la Roma onestamente gioca un calcio meraviglioso, ma lo dicono i numeri che nel calcio sono non tanto, lo dice la facilità nel trovare il gol, che invece alla Juventus manca, perché hai ragione nel dire che ieri pomeriggio la Juventus ha giocato un grande avvio di partita, ha messo alle corde il Genoa, ne ha fatte di tutti i colori, però proprio quel grande avvio di partita evidenzia quello che è il grande limite della Juventus in questo momento: fa fatica a far male all'avversario. Antonio, Roma. Eccomi, sono Antonio. Ciao. Dunque, volevo soltanto riportare una testimonianza. Io sono un super tifoso dell'Inter in una famiglia di ultras romanisti, e quindi in questo momento io però, scusa Antonio, io sì, mi rivolgo a Roma, alla tua sì, città, perché vorrei sentire un laziale, vorrei sapere come i laziali stanno vivendo questo momento, suppongo. Bene, allora, male, vorrei terminare soltanto la mia testimonianza, sì, a proposito di occasioni, la vita è fatta di occasioni, anche il calcio è fatto di occasioni, vorrei soltanto ricordare che l'Inter ha vinto, nell'anno in cui ha vinto il triplete, a 5 minuti dalla fine delle eliminazioni eravamo fuori e al 40esimo abbiamo segnato 2 gol alla sì, Dinamo Kiev, sì, ricordo, siamo bene, passati, ricordo, e abbiamo vinto la Champions League, quindi diciamo l'occasione, come dire, fa parte della nostra vita e della... Ma certo, ma poi soprattutto calcio. Antonio, al di là di allargare molto il discorso alla nostra vita, nel calcio soprattutto e in Champions League, nelle competizioni così, Champions League, mondiali, in tutte le competizioni che si bruciano in poche partite comunque, ciò è ancora più evidente, questo è evidenziato dal tipo di competizione. In Champions League sbagli un tempo, sbagli 15 minuti, sbagli un intervento e vai a casa, poi a maggior ragione il calcio è uno sport che ma è strettamente legato all'umore delle stelle, che in questo momento guardano con grande favore la Roma. Sono ostaggio, sono ostaggio. Chi è ostaggio? Ah, ero Tito che era ostaggio, non avevo riconosciuto. Angelo Verona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono punto tifoso della Lazio. Grande, finalmente, la stavo aspettando. E volevo propriamente parlare di Claudio Lotito. Claudio Lotito. Perché nello specifico ho un timore che il signor Claudio Lotito non voglia più far giocare Hernanes in virtù del fatto che non vuole rinnovare il contratto. Ora, sì, normalmente lo dice, non ha grandi problemi nel fare outing Lotito su questi temi. Ora, visto che ci sono dei precedenti, Pandev, sì. Ledesma che poi è stato reintegrato, Cavanda che fino a quando non ha rinnovato il contratto è stato messo fuori rosa facendo giocare la Lazio senza un terzino per metà. Sì, sì, sì, sì. Io non so niente. Non sta niente, Lotito, non sta niente. Ha sentito. Vorrei sapere se questa possibilità è possibile, preventivabile, o se possiamo stare tranquilli almeno su un campione. Ma guardi, io le dico, Angelo, non basterebbe chiederlo a Lotito, magari lo facciamo, perché su questi temi non ha mai avuto grandi pudori, no? Come sa lei, ha fatto l'elenco di tutti quelli che sono stati oggetto di mobbing, perché di questo si tratta, o di autolesionismo, perché non far giocare giocatori di quel peso, Hernanes non ne parliamo, ma anche quelli che le ha menzionato prima, per queste ragioni è un po' autolesionista, no? Secondo me non so se Hernanes sia oggetto di mobbing, so che è uno straordinario giocatore, può essere che abbia un calo di forma. Se invece il discorso è contrattuale, non si preoccupi che presto lo scopriremo. Ma perché? Perché ce lo dirà Lotito. Dennis, provincia di Udine. Buongiorno, mi accordo. Dennis, io però la sento male. Mandi, sento male. Proviamo a recuperare la linea. C'è chi scrive: ma cos'hai bevuto? La Roma gioca il miglior calcio. Sì, tua sorella, hai visto la Fiorentina e il Verona? Sì, ho visto la Fiorentina e il Verona. La Fiorentina è oltre un anno che gioca ad altissimo livello, il Verona è la grande sorpresa di questo campionato, non ha fatto una grande partita a Milano, non ha fatto la sua miglior partita a Milano. È una squadra che ha anche giocatori di ottima qualità, il Verona, giocatori che stiamo scoprendo. La Fiorentina si gioca un grande calcio, però secondo me la Roma, tutto compreso, è un'altra cosa, tutto considerato un'altra cosa, considerata anche il valore assoluto dei giocatori di questa squadra, la Roma secondo me è superiore rispetto alla Fiorentina, e in questo momento a me piace. Cosa volete che vi dica? Stefano, Genova. Allora, ecco un altro laziale anche se da Genova. Come si vive? Male. Faccio un complimento alla Roma che sta giocando benissimo. No, il complimento alla squadra li ho sempre fatti perché credo sia veramente un grande momento. Però la forza della rabbia, vincere uno scudetto dopo il nostro, sanno di poter cancellare quel derby solo con una cosa eccezionale. E questi bravo. Ma dovranno vincerlo, però finché non lo soltanto a maggio potranno dire qualcosa. Mi dico una cosa al volo, perché ho 10 secondi. Una cosa al volo: ma si può mandar via, come è stato paventato l'allenatore che ha alzato quella Coppa Italia? Non mi ricordo la scena. Chi? No, Petkovic. Come non si ricorda? Ah, no. Ah, sì. No, si è parlato di un esonero di Petkovic. Sì. No. Secondo me no. Cioè, quantomeno. Però bisogna vedere come va la squadra e anche cosa c'è all'interno della squadra, perché c'è dubbio di questo. Ma io voglio parlare di Roma, veramente. Li guardo da fuori. erosica. Stefano, guardi. Solo vincendo lo scudetto potranno cancellare il derby di maggio. Questa gliela passo e ci sta tutta. Grazie a Stefano, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia. Domani tutti convocati alle 14. Ciao. Questo Raikkonen è uno straordinario. Lo vedi anche negli sport che fanno fare, no? È meraviglioso. Che dice. C'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea. No? I have no idea.